At-Tur, il monte. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wat-Tur. Per il monte. Wa kitabim mastur. Per un libro scritto. Fi raqqin manshur. Su pergamena distesa. Wal baytil ma'mur. Per la casa visitata. Was saqfil marfu'. Per la volta elevata. Wal bahril masjur. Per il mare ribollente. Inna azaba rabbika lawaqi'. Il castigo del tuo Signore avverrà inevitabilmente. Ma lahu min dafi'. Nessuno potrà impedirlo. Yawma tamuru as-samaa'u mawran. Il giorno in cui il cielo tremante tremerà, e le montagne si metteranno in marcia. Guai in quel giorno a coloro che tacciono di menzogna. A coloro che si dilettano nella vanità. Yawma yud'una ila nari jahannam da'a. Il giorno in cui saranno spinti brutalmente nel fuoco dell'inferno. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun. Sarà detto loro: ecco il fuoco che tacciavate di menzogna. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. È magia questa o siete voi che non vedete? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Entrateci, che lo sopportiate oppure no, sarà per voi la stessa cosa. Sarete compensati solo di quello che avrete fatto. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. In verità, i timorati saranno nei giardini, nelle delizie. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. A godersi quello che il loro Signore avrà dato loro. Il loro Signore li avrà preservati dal castigo della fornace. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Sarà detto loro: mangiate e bevete in serenità, ricompensa questa per quel che avete fatto. Muttaki'ina 'ala sururin masfufa. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Saranno appoggiati su divani disposti in ranghi e daremo loro in spose le fanciulle dai grandi occhi neri. وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Coloro che avranno creduto e che saranno stati seguiti nella fede della loro progenie, noi li riuniremo ai loro figli. Non diminuiremo in nulla il merito delle loro azioni, poiché ognuno è pegno di quel che si sarà guadagnato. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Provvederemo loro i frutti e le carni che desidereranno. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Si scambieranno un calice immune da vanità o peccato. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. E per servirli circoleranno tra loro giovanetti simili a perle nascoste. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Si andranno vicendevolmente incontro, interpellandosi. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Diranno, vivevamo tra la nostra gente nel timore di Allah. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Ma Allah ci ha favorito e ci ha protetti dal castigo del soffio infuocato. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Già noi lo invocavamo. Egli è veramente il caritatevole, il misericordioso. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ. Ammonisci dunque, poiché per grazia del tuo Signore non sei né un indovino né un folle. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Diranno, è un poeta, aspettiamo che subisca qualche vicissitudine mortale. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Di, aspettate, che anch'io aspetterò con voi. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, am hum qawmun ta'un. È la loro ragione che li induce a ciò, o sono un popolo di superbi? Am yakuluna taqawwala. بل لا يؤمنون. Diranno, lo ha inventato lui stesso. Piuttosto sono loro che non vogliono credere. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Producano dunque un discorso simile a questo se sono sinceri. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Sono stati forse creati dal nulla? Oppure sono essi stessi i creatori? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ O hanno creato i cieli e la terra? In realtà non sono affatto convinti. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ Hanno presso di loro i tesori del tuo Signore o sono loro i dominatori? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ Hanno forse una scala per ascoltare? Chi ascolta per conto loro lo provi irrefutabilmente. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Allah avrebbe forse figlie e voi figli? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Forse chiedi loro un compenso tale che si sentano gravati da un peso insopportabile? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Possiedono l'invisibile in modo tale da descriverlo? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ Vogliono tramare un'insidia? Saranno piuttosto i miscredenti ad essere ingannati. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Oppure hanno un altro Dio all'infuori di Allah. Gloria a Lui. Egli è ben al di sopra di quanto gli associano. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Se vedessero cadere un pezzo di cielo direbbero è un cumulo di nuvole. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Lasciali stare dunque, finché non incontreranno quel loro giorno in cui saranno folgorati. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Il giorno in cui la loro astuzia non gioverà loro in alcunché e non saranno aiutati. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ In verità gli ingiusti saranno puniti già prima di quello, ma la maggior parte di loro non lo sa. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Sopporta con pazienza il decreto del tuo Signore, poiché in verità sei sotto i nostri occhi. Glorifica e loda il tuo Signore quando ti alzi. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. E glorificalo durante la notte e al declinare delle stelle.